guardato e ho detto, ma sono per le scatole, prendo la schiaccio, la faccio, la sofferro, faccio quello. Niente, poi invece mi sono messo di buon umore, ho preso, ho investito 700-800 euro, adesso non mi ricordo, di tra materiale per lavare, l'ho riaggiustata bene, l'ho aggiustata bene proprio, mi piaceva anche come l'ho fatto, adesso me la tengo, invece poi mi è uscita l'occasione e me l'ho venduta. E con questo derivo ho dato l'acconto per il camper, ma il camper è già una cosa un pochino più recente, quindi insomma è una cosa che mi auguro che non faccia la stessa fine della ruota, perché sennò mi sparo. Cos'è un Ducato? Sì, un Fiat Ducato 2008 con GTD, turbo diesel, è un 7 posti, è abbastanza grande. È bello, da me. A me lo stesso camper piace molto, però caspita, come fai? Non è il fatto neanche a comprarlo, perché cioè, già lo prendi, non sono queste cifre, è il fatto che poi non hai, io non ho tempo, cioè lo compri per tenerlo qua in campagna, ho usato una volta, ma non era quando va in ferie, io sono in piena stagione. Ad avere solo una lumara e basta, solo una lumara di dirmi questa cosa ferma e non usarla. Quindi adesso vediamo un pochino come va. E vabbè, ma se no prendiamo, me lo noleggio, giocando così che me lo noleggio e ce l'ho, quindi ho trovato una gita noleggiato. Avanti fra. Capio. Grazie di avermi dato il microfono, così chiudo. Ci sentiamo, dai. È un po' tardino. Ciao Tino, buon proseguo, buon tutto. Mi ha fatto piacere di sentirti, dopo tanto. Ciao anche a te Gavino, già se capita già ci sentiamo. Tutte le prossimine. Avanti, riprendi. Quindi Tino, ce l'ascoltiamo alle prossimine, correti per me, mi sono salendo di luce, avanti. Via, va bene, vai fra, ci si riascolta, buona carica, buon tutto, vai, fate sentire più spesso che vabbè, io lo stesso, io sai, butto la pietra sulla mano, dico agli altri, faccio sentire voi, sono io il primo che purtroppo causa il tabacco, dopo, tra virgolette, coricarmi presto, vai. Il mio prezzo è sempre 12:30 a mezzanotte, quindi è per forza ormai sì, però ormai l'abitudine è quella. Va bene, fra, dai, ci si riascolta, un abbraccione grande, dai, ci sentiamo, vai Gabi. Sì, Franco, dai, buonanotte, buona carica. Ci sentiamo tutte le prossime. Però ho detto, quando vuoi fai un fischio, io già sono qua in radio, la notte dopo le 21 sono in radio. Prima no. E niente. Diciamo che dal camper è più completo, perché puoi viaggiare con la famiglia, invece la ruota è più comoda, perché diciamo che ti fermi e hai la macchina per sottrattene, fare la spesa, queste cose. Però io già sono del tipo che non riuscirei ad andare per esempio una settimana in un solo campeggio. A me piace per esempio una notte, mi fermo lì, magari una notte, due giorni, una notte, e poi rimani 15 giorni in giro e va bene. Però la verità, stare fisso in un posto come gli altri. Ma dipende, perché effettivamente se voglia girare è meglio il camper, se voglia di girare e andare nei campeggi allora è meglio la roulotte. Io ho provato entrambi e ti posso dire che la roulotte, per dire, in certi aspetti, se te la prendi bella, come l'ultima che stiamo facendo adesso, che praticamente sono bellissime all'interno, hanno tutto, la doccia col bagno, cioè il bagno della doccia separata, una bella cucina, un bel matrimoniale, insomma, è bella, però c'è la possibilità di mollarla lì e andare a fare un giro con una macchina, vedere il paese, poi rientrare, capito? Mentre invece invece col camper, se sei in un campeggio, perdi la priorità, nel senso che molli la tua piazzola, quando rientri magari non è più quella, ne è un'altra, insomma, ti devi accontentare. Se fai libera invece è meglio il camper, perché fai un po' qua, un po' là e così via, capito? Poi il mio addirittura, quando l'ho preso, mi è piaciuto, l'ho visto quando l'ho visto il primo giorno, ho detto è troppo grande, forse tra me no, è enorme, cazzo, perché sai, sono 7 posti, sembra così, però in 4, quel posto lì ci vuole tutto. E poi un'altra cosa, c'aveva il gruppo elettrogeno incorporato, un sacco di comodità, tranne che una cosa che a me non ci ho fatto poi così tanto caso, forse mi sono fatto prendere un po' della fretta e l'aria condizionata, però ho risolto con un pinguino De Lunghi che quando vado a fare i campi mi porto e va bene uguale. Sì. No, vabbè, a me, io per campeggio ti parlo, a me piace molto girare, quindi rimango uno o due giorni e se mi piacerai uno o due giorni poi girare anche a 30 km, spostarmi, capito? Non mi piace rimanere, cioè farmi, mi piace farmi 15 giorni all'anno, però fammeli in giro. E niente. Sì, quando avrò possibilità, diciamo, in tempo, quando avrò più tempo libero, provarsi che ci faremo un pensierino. Caspita, perché poi noi ci divertivamo, venivano i miei parenti Emanuela, Traffita Notti, quasi mi piaceva uscire da Fiumessando, dal Giamminchivi, con la ruota, una resata grafica. Era bello, però poi non avevo, c'era rimasta una stagione ferma, sono andato a riagganciarla e c'era la Simona che dovevo prendere, mi stavano problemi il gancio, poi le ruote, era una ganascia che si era inchiodata, perché una porca miseria, sono andato a mettere la posta, sono voluti quasi 400 euro, ho detto no, fermo un attimino. Allora l'ho venduta a nuvolo, adesso l'ho messa a posto, prendo e la vendo, infatti l'ho venduta subito a nuvolo, l'ho venduta una guardia giurata, se l'aveva presa, ma dopo 4 giorni l'ho venduta, dopo se l'avevamo presa al volo. Sì, ma come c'ho coso, io me la prendo, altrimenti penso di no, di farmeli 15 giorni anche quest'anno, a settembre, di farmeli con un camperano liccio. Sì, guarda, io quando ora che era a Libri, era più di 10 anni, sono di più ferma lì, quindi ti puoi immaginare le intemperie che ha preso, le formiche, guarda, c'era. Insomma, non era nelle migliori condizioni, però sono riuscito a portarla un po' recente. Tu ferma, questa lì era ferma più di 10 anni, sono di più, il primo viaggio che ha fatto con me, prima siamo andati a Padova e dopo abbiamo fatto Cugnana. Cioè tu pensa che se si dovessero scoppiare le gomme erano anche senza gomme, tipo immaginare che io avrei mollata lì, per come sono fatto io avrei mollata i chili. Sì, vabbè, tu pensa che quando io ho comprato quella ruota lì, quando abbiamo comprato quella ruota nostra, diciamo che non aveva revisione, era 2 anni, era, non l'ho ascoltato la revisione da 4 anni mi sa, non era stata revisionata, e questa signora ce l'aveva detto, quindi per fare la revisione a questa roulotte non puoi capire cosa tutto ho fatto. Allora, voluto permettermi la per fare la revisione per prendere la roulotte, ho dovuto mettere il gancio del treno alla macchina, quindi fare tutte le procedure del gancio di traino, andare a motorizzazione, omologare il gancio, poi la revisione della roulotte, ho dovuto cambiare le gomme perché le gomme non erano più, perché quelle lì non vanno a, non vanno a essere a, diciamo, a consumo, ma vanno a, a danno, lo so benissimo come funziona. Quindi sono dovuto andare in motorizzazione, cercare la sigla di queste ruote, che mi ha dato questo libro, quella dell'ingegnere, ha detto guardi lo cerchi lei perché sono andato nel reparto revisioni, mi hanno acceso questo libro e ho dovuto cercare la misura delle gomme che si adattava a quelle lì. Poi ho dovuto prendere, mi hanno rilasciato il permesso per portare la revisione in tale data a fare la, la revisione della motorizzazione. Ho dovuto rifare il timone, ho dovuto rifare tutto il barabuio di 2 anni, ancora lo timone. Però io quello ho passato con quella roulotte per metterla in strada, non te lo dico, non te lo dico perché, perché poi non era vecchissima, era una roulotte, diciamo, però era ferma anche la mia, era ferma un po', e era 4 anni che dovevo rifare la revisione. Quindi ho dovuto fare, guarda, ho dovuto scavalcare i monti per fare la revisione con l'attrezzo. No. Beh, io non ci ho neanche pensato a fare la revisione, perché era uscita la voce, non mi ricordo da quale anno, che dovevi fare la revisione, quella non entrava negli anni della revisione, quindi non mi sono neanche preoccupato. Ho detto se mi fermo vuol dire che cosa vuoi, ti lascio, boh, facciamo una cosa. Non ci ho neanche pensato alla revisione, figurati. La targa ripetitrice, la targa ripetitrice a norma, cioè a norma, una cosa mi sono dimenticato di dirti, cosa ho dovuto fare per la targa ripetitrice, non è che tu prendi quella gialla e la attacchi, no, ci deve essere la targa gialla con la R rossa prestampata, che te la rilasciano solo in motorizzazione, nel 20-25 euro di balata, dopo che donna a donna, vai da chi sicuramente come ti fosse a oggi. Io ho fatto tutto quanto a me, ho detto se non voglio che mi fermo non mi prendi la macchina, me ne fermo la macchina nuova. Quindi pensa cosa, la bui si terrà conto della mia stessa fiume santo, che sento mi valido, mi vado in in un pezzo, mi verrà a sapere la roulotte. E poi cosa vuol dire tanto di questa roulotte? Avevo un'alfa, un'alfa Romeo 166, era un 2004 GTB, era tirarla. Però cosa, quanti quando ti avevo preparato il fagno, no? Cioè, mi ha fatto parte vicino al fagno e proprio come sono andato a tutta la fuori senza accelerare, dove sei, c'è scesa, si fa dentro una marcia. Avevo già mandato il trattore a cavalli, la ruota, la macchina, tutto, la giunta a coscia. Ho detto, poi c'è la ruota a casa e mi ha giunto di vendere. Io invece, vabbè, io l'attaccavo lì prima con la Toledo, avevo la Toledo GLX 1006 a carburatore, quindi pompavo e andava bene. Poi invece mi ha cambiato la macchina, ho preso Land Rover per fuori strada. Tu pensa che alla carriera l'avevo bucato, e avevo questa, ma non è che me ne ero accorto, io stavo camminando, fuori strada non te ne accorgi, però a un certo punto guardo lo specchietto, la vedevo andare a zigizzare, no guarda, avventura anche io, se ti vedo raccontarle, mi sono fermato, che trocciava la ruota bucata da una parte, ho detto no. E vabbè, sai, con la famiglia cosa fai? Non smonto la gomma di scorta della sgonfia e poi allegria. Ho preso il telefono e poi io ho chiamato mio cugino che abitava a Bancale, quindi e per fare una cosa, prendi il compressore e vieni a prendermi, che sono a camionare, e poi così gonfiamo la gomma e la piazzo e vabbè, intanto ci dovremmo vedere l'indomani, che lui doveva scendere l'indomani con l'altra roulotte che aveva chiuso la roulotte. Ma le avventure che ho passato con questa roulotte, voi lascia biglietti. Se lo vuoi bene che Pino, guarda che va a raccontare, anche una vergogna, e cosa ho supportato la roulotte, perché è una vergogna raccontarlo comunque. Quando ci vediamo in verticale già ti racconto, già ti faccio un po' di tour e mi dici che vuoi il gabbo. Lui che non ha giudicato le cassette, vale due gambe con questa roulotte. Boia, guarda, lascia perdere, è uscito il fiume del santo, lui te c'è nel cassonetti. Piglio io, ti do occupato il sindacato, un cassonetto mi sta dando, mi sta dando da quattro, e ti ridico 50 metri, con i vaca. Il giorno vai, però. Sì, vabbè. Che dovrei fare? No, ma sono cose belle, perché ti capita una disgrazia, però sentire per raccontare, ci fai quattro risate, vabbè, al momento magari ti nervosisci, però poi alla fine ti scappa sempre una risata. Io lo stesso, sembra così, io ho fatto l'azzardo perché ero innamorato del camper, dopo le avventure che ho fatto con la ruota, ho detto, no, magari un domani sai se lo compro quello e quell'altro, faccio qua, faccio là, e poi invece tra impegni calcistici, tra lavoro, tra tempo che non hai, praticamente me lo sto godendo, tra virgolette, l'estate e basta, perché ce lo sto pagando per vederlo lì fermo, meno di credere che è stata una grossa, diciamo che ce l'hai, quando ti serve ce l'hai lì, è tuo, prendi, parti, fai, ti vuoi fare qualche lavoretto, sali sul campo e te lo fai, non è quello il problema. È che se pensandoci bene, insomma, ho speso un po' di soldi per vederlo fermo, ecco. Sì, almeno che non lo usi anche d'inverno, perché c'hai sabato e domenica liberi e te ne vai, e non lo so, a farti qualche fine settimana fuori, ma devi essere anche organizzato con truffe, cose, capita, non fa un problema, non fa un problema. Ma tu paghi, tu ce l'hai nel parcheggio oppure ce l'hai a casa tua? No, io sono a casa, io abito in campagna, periferia della Perugia, no? Quindi ho una campagna mezz'età, quindi ce l'ho qua. E guai, sono a pagare anche il parcheggio, no, non sarebbe stata la mia idea dal principio di non comprarlo, no, ce l'ho qua e grazie a Dio, bene o male, il posto c'è, quindi mi devo fare qualche lavoretto, me lo faccio, non c'è problema per quello. Il mio è attrezzato anche per l'inverno, non è che ha la stufa a truma, scalda molto anche, non è quello, il problema è che mio figlio gioca a calcio, quindi giocando a calcio hai la domenica impegnata, quindi a meno che fa qualche partita fuori, allora decido, vado direttamente con il camper, dormo lì e sono già lì per l'indomani. È capitato qualche volta anche l'ho fatto, anche senza avuto lontano, siamo andati anche ho fatto la presa all'Alghero, sono partito la sera, sono andato all'Alghero, ho dormito lì e poi di 9 mattina eravamo già sul posto del campo. Sì, è per quello già comodo, perché come fare, per esempio, lui non arriva stressato dal viaggio, è bello riposato, quello vuol dire tanto. Quello vuol dire tanto, perché secondo dove volevamo giocare, magari partiva la mattina, se c'era la partita che iniziava passo alle 10. Se uno va al centro sta bene, deve partire alle 9, alle 8 e mezza, alle 8, ti risveglia alle 7, e più un viaggio, così diventa così, ma è malato, magari lo stressi, e magari poi non ha neanche le forze per, diciamo, la concentrazione per giocare. Invece in quel modo già, diciamo, già sul posto, si sveglia un'ora prima, una colazione anche tranquilla, e può partire, può fare. Vuol dire tanto, vuol dire tanto. Io ti ripeto, se avrò possibilità in tempo me lo prenderò anche io, anche perché io sono qua in campagna, lo stesso c'ho lo spazio per tenerlo e non fa un corteggio. No, a chi si deve pagati, ma la razza, mio botteggio, e allora anche mi devo mandare un bagno a vero, No. Poi se tu devi lavare c'è anche il porto, lo copri, c'è la casa, ma è diverso, sì, allora se c'è in campagna è tutta un'altra cosa. Sì, ma è un'altra cosa, siamo andati a Nuoro, siamo partiti sabato pomeriggio verso le 4, così, e loro fanno partita alle 10, però cosa fanno loro? Praticamente hanno la partita alle 10, ma devi andare un'ora prima perché devono fare la preparazione, quindi anziché alle 10 deve essere alle 9 lì a Nuoro, e il viaggio ci vuole tra una cosa all'altra, devi stressato, attracco, poi devi aspettare un'ora lì, invece sono andato con calma, vai già, perché sono vicino, vai al campo, tu vai già, te la giungo più tardi. E così c'è bello, già lo so. Vabbè, ma finché si tratta di farlo lì, insomma, ogni tanto, vabbè, perché sembra così, ma se non sai il posto devi sempre chiedere la posizione, tra una cosa e l'altra, e molte volte ci sono dei campi anche vicino, quindi non sai qual è uno all'altro, ma ci si trova sempre, non è che... Sì, no. Già bello, ci si mongo c'è un microfono originale. Già bello. Dai, vediamo un pochino, penso che tutti gli amici miei, diciamo quelli dell'infanzia, ce li hanno tutti e vanno. Io sono, diciamo, io e altri due siamo gli unici che non abbiamo il camper, però io già ho l'idea di prendermelo. Va bene. Tino, tu qua mi stai arrivando una scheggia, se 9:20 e se radio super 5, ma tu hai per caso l'LC, no? L'LC, cosa ce l'hai dentro il rosso o sei fuori? Perché io ce l'ho regolato diciamo al 25 ce l'ho io, al 25. Quando arrivo il picco di popolazione è dove c'è il 25. Io sono all'interno dell'LC, io adesso, vabbè, lo sto tenendo, aspetta un attimo. Vediamo un attimino, aspetta, vabbè, vado a insegnare sempre. Sì, è così da. No, sono all'interno dell'LC, ha dei picchi positivi per caso. Ora. Sì, passi da 9:15 a 9:20 con i picchi positivi. Io ce l'ho. Allora. Io ce l'ho alla immodulazione che va tra 25 e 30, dai, nella fare rosso dell'LC, diciamo che va due patate in più alla C, e numeri di campo di assorbimento positivi, 80 euro di vuoto di patate bianca, 80 euro e mezzo e 12 ampere e 4 quando fischia. Va bene, va bene. Prima così qua, hai un tastino sulla destra dove c'è scritto AIP. Sì. Ce l'hai inserito o disinserito? No, no, ce l'ho disinserito adesso. C'è scritto AIP nel display? No, no, no, no, no, no, no, è disinserito, il filtro è disinserito. Prova a metterlo a vedere. Adesso c'è, guarda un pochino se è cambiato qualcosa. No, vabbè, a me è cambiato qualcosa, molto sicuramente sono più basso ora. Vero? Guarda un po'. Se io ho fatto i positivi a 9. Vabbè, quello bisogna sempre tenerlo disinserito, poi se disturbi lo metti là. Ottino, scusa, mi avevo l'attenuato inserito io con te, fammi un passaggio. Prova, vabbè, guarda, 9.3, prova. 9.40. Sono fatto 9.20, però può capitare. Perché eravamo con Franco Bogotà in FM, e ho messo l'attenuatore, capito, non l'ho indicato. Vabbè, no, non c'è problema. Voi avete detto arrivando via a segnale? Sì, 9.30, fichi positivi 9.35 voi. No, però mi piace più questa là, hai cambiato microfono. No, ho sempre gli amici 80. No, ti sei spostato un pochino, perché poco fa eri più acuti avevi. Guarda, vedete, adesso è meglio, adesso ce l'ho 40 centimetri. Sì, ma se parli ancora più lontano è ancora meglio, solo ma c'è appena l'amplificazione. Tirala così l'amplificazione, parla un po' magari con il braccio, io sono con un braccio disteso, Ce l'ho a 60 centimetri adesso, guarda, vedete. Ma c'è troppo, avvicinati un po' di più, così ci sono anche meno male la posizione dove prova un po' appena più vicino al microfono. Ok, così sono metà, sono 40 centimetri. Cioè, sì, cioè. Guarda, 40-50 centimetri va bene. Ok, quindi così. Quindi è così. Ma tu lo sai che te ne sei accorto che questa radio qua, dopo una certa sua, attiva i picchi negativi anche nell'orientazione? No, vabbè, questo non l'ho notato. Notalo, che danno picchi negativi anche nell'orientazione, quando sollevi troppo le leci. Vabbè, quando arrivi oltre la soglia abbassano. Ho capito, ma capita, ma abbassano di brutto, ma abbassano di brutto. A me per esempio, se io sollevo le LC anche con lo strumento esterno, mi segna 80 watt e poi se ne scende a 40 modulazione. Aspetta, faccio per dire, l'ho abbassato io, guarda, hai notato qualche cosa, guarda il segnale, ora, adesso l'ho abbassato, No, il segnale è sempre uguale, sì, il segnale è sempre uguale, non ha cambiato proprio niente. No, perché avevo il carrier usciva fuori dalla soglia della LC, allora era proprio fondo scala, siccome sto tenendo sotto controllo un po' le stazionarie che ho l'antenna, non nelle migliori condizioni, quindi devo accordare, però ho notato che era un difetto, non lo so se è un difetto o meno, oppure perché l'ho trovato io di stazionare, quindi non ce la fa proprio a scenderle del tutto, ma scende a 1.5, capito, anziché 1.1. No, ho capito. A me invece mi sa che proprio questo tipo di radio che è strana, ma lo sai tu. A me mi pare che c'è proprio questo tipo di radio. Ma che non ce la fa a portare? No, in tutto. No, a cordare ce la fanno, capita, la giornata a cordare la macchina, c'è la radio, questa cosa dell'LC va in negativo, e 4.40 non le fa queste cose. Io guarda, io preferisco più questa. Sì. È molto più sentiva. L'unica cosa che hanno fatto, tra virgolette, non errore, però nel digitale perché era analogico. No, vabbè, ma quello non è un problema. È il fatto della che come l'LC troppo delicata, cioè come lo tocchi prende va fuori. Cioè se lo vuoi tenere nei suoi parametri, questa radio qua non deve dare nessun picco relativo, capito? Né in macchina né in alimentazione. Non deve dare nessun picco relativo, perché altrimenti ti fai danno. Vabbè, io questo non l'ho mai notato perché vedo sempre che è in positivo, quindi non ho. Non è parso di vedere, non ho riscontrato questo difetto, ecco. Guardalo con lo strumento esterno a vedere. Provala con uno strumento esterno a vedere questa radio, a vedere se mi dai ragione. E dopo che superi la terza tacchetta, anzi, arrivi a 1, 2, dopo che superi la metà della seconda tacchetta, mi abbascia. No, l'ho staccato perché forse ho mandato una fotografia di questo della CTE. Insomma, in penombra, non riesco, forse ho una luce di cortesia più che altro, non ne vorrei accendere gli altri. 27500 mi sembra che sia, dalla CTE, non so se lo conosci, un accordatore, rosmetro, wattmetro. Sì. Però, vabbè, lo devo studiare un pochino meglio perché c'è qualcosa che non va o meno, non lo so. Comunque quando ti capita guardalo con lo strumento esterno della radio, ti renderai conto di quello che ti sto dicendo. E io sono quello che faccio, capiteti, perché a me me l'ha fatta notare Bianconi questa cosa, quando siccome ho riparato quell'ICOM e me l'ha rimandato, e mi ha detto controllate sempre negli apparati l'alimentazione in assorbimento e il watt in uscita con lo strumento esterno, mai picchi negativi in alimentazione e picchi negativi in trasmissione, mai. No, non l'ho mai controllato, devo essere sincero, io avevo l'unico strumento che avevo attaccato a questa radio qua e poi l'ho staccato perché l'ho messo nell'altra, nel 5005, era un HP 2001, quindi non so lui attaccato. Se ti capita provalo, adesso per esempio guarda. Allora, 8 ampere e mezzo in portante bianca e 12 e 4 in trasmissione, no? 12 e 4 adesso poi mi dà 12 e 4 e poi scende a 7 e 6. L'alimentazione è positiva, adesso sta dando 15 watt di portante bianca e 37 watt in positivo. Se io aumento adesso appena il carrier va, mi sale a 60 e poi scende a 30 modulati. Mi segue. L'alimentazione a portante bianca a 15 ampere e modulati 10. Non ho mai notato queste cose, vabbè, lo tengo sempre una soglia e poi sempre. Come sei dando tu di alimentazione? 60 ampere, 60 ampere della 8, è un alimentatore di solito. No, no, no, vabbè, ma io ho quello suo, il suo suo proprio, quindi no, non lo so, ma sono valenti, mi trovo impreparato su questo argomento. E prova, se ti capita l'occasione, provalo, mi darei ragione. E poi se ci pensi è giusto, perché con queste regolazioni qua sono dentro la soglia dell'LC, quindi è così. via, andare. Bene, va bene, io dai, mi devo organizzare a prepararmi per domani. Quindi ti saluto, mi ha fatto piacere riascoltarti dopo un po', se coincide allora anche domani notte, vediamo un pochino come siamo messi, dai. Sono andato ad andare lontano, perché non so neanche se gioco domani a bere. A caso già ci si riascolta, dai. Io sì. Io già sono qua, dopo cena già sono sempre in radio, tanto rimango pasticciando qua in cameretta. Già sono qua. Ok? Grazie a tutti per questo, ci sentiamo tutte le prossime. Fatta la buona. Ciao, buonanotte. Beh, figurati. Ciao, buonanotte, ciao.